Sto impazzendo, cazzo. Penso che diventerò pazzo. Sì, sì, diventerò pazzo e prenderò in mano una pistola. E tornerò da tutti quei bulli della scuola che mi hanno picchiato, mi hanno frustrato, stressato in tutti questi anni, torturato. Con ste cazzo di rime non ne posso più, mi sembrate delle sgualdrine. Sì, sgualdrine, sì. E io non sarei il boss. E chi lo è, scusa? Boss dell'arte, fatti da parte, ragazzo. Sei soltanto un interprete di quello che canto. Non chiamarmi pazzo, io sono Stan. Rimango qui, meglio di me non userò la mia spada contro di te, cazzo. Un viaggio disperso nel mio cuore. Questa base sembra andare al contrario con un beat. Nel mio cuore c'è una 24 ore. Una pistola è un solo proiettile. Spero stanotte di non spararmi, perfetto. Devo pensare a cose perfette. Rimettere a posto la stanza. Gironzolare qui non si sa mai con una canna. Mi rilasso, ma sembro sempre più pazzo. Non so cosa fare, se non parlo esplodo, vomito, cazzo. Se parlo ancora, fra un po' mi mandano al rogo, genio. Sembra urlare questa canzone. Ritmo. Ritmo. Ritmo. Ritmo. Cos'è, non parli più? Io ti ho fatto Belzebù nella rima come caribù. Le mie ossa nella fossa, nel vaso della strega, sembrano un rito arcano. Di me hanno bamboline voodoo che prendono la mira bene, poi filano il loro amo. Ricamo sull'anima questa strofa lirica. Vorrebbe farmi piangere, ma non trovo neanche una briciola di cuore in questo squallore. Mi è rimasta soltanto l'anima, forse, e neanche più quella. Tu eri più bella della bella della bella. Ti amo, non so come dirtelo. Torna, faremo una fagiolata di fili. Vorrei dirtelo davanti, se ti avessi il coraggio davanti agli occhi. Oh mio Dio, venisse a trovarmi. Non ce la faccio più, se non parlo esplodo. Ti amo davvero, non lo sai che... Da quando non ci sei più...